Il sabato del villaggio. E siamo alla terza ora del sabato del villaggio, quindi ci mettiamo il vestito da sera perché è il momento di aprire la pagina di RadioTube. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Beh, una puntata sul lotto volante questo sabato del villaggio, la ciliegina sulla torta, è la terza ora di RadioTube. Finalmente ti rivedo, Daniele. Eccoci. Sono due settimane che ci vediamo. Sì, perché tu sei andata via, sei andata a sciare, io ero al mare. A sciare ho anche lavorato, non tutte e due le settimane. No, vabbè, dai. Allora, mentre io ero a Sanremo, al mare, tu eri in montagna. Sì. Ci siamo seduti per telefono. Ma senti, ma quanto è carino. No, stavo commentando in regia prima. Sì, quando è super carino. Ma proprio quelle canzoni lì deve cantare. Ma come ti permetti? Ma no, difendere Assima Filippo in regia, no? Cosa? Alcune canzoni, preservarle. Ah, no? Perché dalle non ti è piaciuta la cover? Diciamo che lo preferisco quando canta le sue, ecco. A me era una delle cover piaciute di più nella sera delle cover di Sanremo. Viva Valerio Scanu. E devo dire a tutte le fan e i fan che mi stanno scrivendo su Twitter e io su Instagram. Filippo, prendiamo nota. Sì. Non ce la faccio a rispondere. Ovviamente Twitter è impazzito e non riesco più neanche a leggere le mentions. Comunque. Chiocciola Marta Cagnola, se volete provare. Non so se ci riuscite, ma non per colpa del mio account, ma perché il mio è vuoto invece. Perché qui c'è una bella e allegra festa dei fan di Valerio Scanu che lo volevano salutare e non so più come fare, ma lui è così, è un fenomeno. Chiocciola di Bellasio. Sì, non ci sono i fan di Scanu, parliamo d'altro. Anzi, fan di Scanu, se volete sgridare di Bellasio perché non gli è piaciuta la cover... come i cani, attacca. Questo può essere... Hai visto che tra l'altro io ho vinto, perché io ti favo Stadio e Patti Bravo. Allora, adesso, ma poi di Sanremo parleremo più avanti. Però dopo il primo ascolto, il 22 di gennaio, quando ci siamo parlati, io ti ho detto: io che canzone ti dedicherò quest'anno? Io ti Stadio. Ho detto, vedi. Sì, perché c'è il rapporto padre figlio. Ma non solo, perché io subito ho detto: la canzone per te è quella degli Stadio, hai capito? Perché io ho la palla di cristallo. Perché comunque... sei brava. Comunque sulle canzoni non voglio più farti arrabbiare. No, giornata difficile. Difficile, l'avete già ricordato. Sì, perché questa mattina io mi sono svegliata apprendendo della notizia di Umberto Eco. Io ero andata a dormire abbastanza presto ieri sera, quindi l'ho visto questa mattina. Io alle 2:20 e ho raccontato una cosa carina. Che una volta dovevo fare un'intervista. Sì. Il direttore mi aveva detto: devi chiedergli se vuole farsi intervistare sull'evoluzione della destra. Sì. Lui mi rispose: guardi, purtroppo sono in giro perché devo fare delle lezioni, parentesi, ma la destra si evolve? Beh, ti aveva già risposto. E infatti l'ho usato, un pezzo l'ho fatto. Gliel'ho chiesto se potevo. Però lui, sai, non amava tanto quello che noi amiamo tanto. Ne avevamo già parlato perché c'era stato un po' di dibattito all'epoca. Sì, raccontiamo un po' cos'era successo. Umberto Eco era una lectio magistralis. A Torino, vicino alla sua Alessandria, cioè nella stessa regione. E si era un po' scagliato contro i social network. Sempre, dire non così. Era arrabbiato, però usava quelle parole che lui tra l'altro amava usare, il turpiloquio ogni tanto. Per esempio gira molto in rete, non so se l'hai visto, no? Questo pezzo straordinario su come prepararsi alla morte. E bisogna prepararsi alla morte imparando a capire che tutti gli altri sono dei coglioni. Mi pare un'ottima ricetta. 2 o 3 anni che ti stai allenando con uno in particolare, ma invece sui social network diceva... Ma riascoltiamo un po' quello che aveva detto in quell'occasione. Il fenomeno Twitter, che permette a certa gente in fondo di essere in contatto con gli altri, perché abbiamo una natura leggermente onanistica ed esclude la gente da tanti contatti faccia a faccia, crea però da un lato un fenomeno anche positivo. Pensiamo a cose che succedono in Cina o Erdogan in Turchia, è stato anche un movimento di opinioni. Qualcuno ha detto: se ci fosse stato internet ai tempi di Hitler, i campi di sterminio non sarebbero stati possibili, perché la notizia si sarebbe diffusa viralmente. ma d'altro canto fa sì che dà diritto di parola a legioni di imbecilli, quelli prima parlavano solo a bar dopo due o tre bicchieri di rosso e quindi non danneggiavano la società. Certe volte basta vedere quando passa in basso i pezzi di Twitter di vari, si vedono oltre che in contraddizione reciproca, sono della gente che di solito veniva messa a tacere dai compagni, ma tasti stupid, ecco, e che adesso invece ha lo stesso diritto di parola di un premio Nobel. Era vero, verissimo. Era può bannare, peraltro. Tra l'altro, poi sono successe delle cose davvero con i Twitter, con i tweet che passano sotto le trasmissioni. Aveva ragione È sempre in televisione, peraltro. Sì. Restando allora, in televisione, lo fa apposta. Ormai lo fa apposta. Io sai che io adoro. Ma lui ogni 15 giorni fa capitare qualcosa nel TG, così poi finisce virale. No, allora secondo me le cose capitano perché lui pretende giustamente molto da chi lavora con lui, ma probabilmente pretende le cose anche all'ultimo momento. Però. Mentre la radio si sfila, si cambia, la TV è un po' più complessa. Cosa è successo? Non si è capito, a dire la verità non si è capito. Cioè lui continuava a lanciare. Un disastro e... Mi è piaciuto la battuta, sentiamo. Vabbè, sentiamo. Sentiamo cosa ha combinato Enrico Mentana al TG La 7. Non ci credo. Potete immaginare che questo servizio non c'è, quindi andiamo a vedere invece... Dite una cosa a piacere, ditemi cosa c'è. E questo inizia così, ma una va avanti. Una cosa piacere. Eh? Una cosa... Ah, va avanti. Va avanti, va avanti, sentiamo. Cosa succede? Ah, sta arrivando. Vediamolo allora. Scusate, ma lo sapete già tutti, potete immaginare, potete farvi il film di cosa passa in questo momento nella nostra regia. Cioè, scusate, avete detto che era pronto dopo 2 minuti, 3 minuti fa. E allora? Allora, siccome già l'avevo detto, sono stata stagista moltissimi anni fa di Enrico Mentana, io ero terrorizzata da lui perché, cioè, lui fa davvero paura quando dice queste cose. Però, scusami, i siti hanno titolato Mentana furioso, non mi pare furioso, anzi, è il suo modo di essere furioso, ti fa stare malissimo. Quella risatina che dopo ti uccido. Ditemi una cosa a piacere e tu ti senti malissimo. Infatti l'ho chiesto più volte alla nostra comune amica Alessandra Sardoni come fa. Esatto, e lei chissà invece... di chi era il servizio. Bah, che paura, io immagino le scenate che ci sono state dopo, tecnici, giornalisti, regia. Io sono ancora terrorizzata da Enrico Mentana, uno dei protagonisti di questa settimana, non l'unico, dai, in questa carrellata dei protagonisti chi sceglie ancora? Vogliamo parlare del Papa o direttamente di Lady Gaga? Facciamo il Papa. Il Papa la tocca piano. Più di una volta, peraltro, questa settimana, perché era abbastanza... Sì, vero, brava, è sì, vero, sì, sì, era, sì. Era in vero. Era bello tonico. Sono i viaggi in aereo. Io ho questa teoria che i viaggi in aereo ai presidenti e ai papi creano questa voglia di parlare. Per esempio, come l'ha toccata piano con Donald Trump. Lo vogliamo ascoltare subito? Vai. Eccolo. Una persona che pensa soltanto in fare muri, sia dove sia, e non fare ponti... Non è cristiano. Non è cristiano, niente di meno. E Trump prima ha detto, quando l'ISIS attaccherà il Vaticano vorrà avere un presidente come me. Poi il giorno dopo ci ha ripensato, ha detto adesso copriamoci dall'altra parte. Quindi ha detto no, però Francesco è bravo. Ce l'abbiamo, eccolo qua. No leader, especially a religious leader, should have the right to question another man's religion or faith, especially when they feed all sorts of false information into him. Insomma, il povero Trump in questo periodo continua a fare il suo struggle, la sua lotta per il potere. Chissà come andrà a finire. Prime pagine continue comunque lui. Se non altro comunicativamente il suo scopo lo sta raggiungendo. Poi con questa elettoralmente voce. Vedremo. Vedremo. Daniele, questa puntata sarà piena di ospiti, lo dico già agli ascoltatori. Abbiamo 3 blocchi, 3 ospiti. Saremo veramente... spumeggianti, spero, un attimo di fiato e di pausa. Traffico. Poi politica, tra poco. Radio Tube. Oh, è arrivato arrivato l'SMS dell'ascoltatore che ci dà dei perbenisti. Noi perbenisti, io poi perbenista, mica ma tanto. Ma male, ma per cosa? Bellagio Cagnola? No, non puoi leggere, non puoi leggere. Ma perché perbenisti? Ce lo spiega il signore di questo numero, neanche il non numero. Non si può neanche il numero, possiamo leggere. Non si può fare niente. No, però... ci spieghi perché perbenisti, per malisti è più bello. Io sono per malistissima. Anche perché sei seduta, Maggi, come mai? Non lo so sei perché... Sei tutta su un trespolo, sei 2,40 metri. Non lo so, non riesco ad abbassare la sedia, Daniele, sono nervosa di mio. Resta lassù. Allora, parliamo di politica. Parliamo di politica. Allora, due premesse. Uno, per una settimana sono stata, anzi per quasi 10 giorni a Sanremo. Sì. Per me, per quei 10 giorni lì non è successo niente. No, non è successo. No, nel senso... A seguire. No, vabbè, sai che un minimo così di orecchio lo tendo. No, per me la settimana di Sanremo c'erano solo due cose nel mondo. Scanu? Certo, le canzoni. E le unioni civili, perché a Sanremo si parlava più di quello che di Beh, allora canzoni. Vedi che stiamo parlando dello stesso argomento. Sì, sono, tu ce l'avevi, poi a me la politica ce l'avevamo tutti. Anche in sala stampa. Ma uno conservatore ci sarà stato in sala stampa. Beh, ma sai, sì, ma no, ce ne sono tanti. Però c'è anche da dire che con tutte le sfumature possibili e immaginabili, alla fine diciamo andava che almeno sulle unioni civili più o meno di accordo. Canguro, ecco. Non canguro? Canguro non canguro, io però alla fine sono tornata da Sanremo, non ho più capito niente, sì. Perché ero convinta che... sono disorientata, sì, Daniele. Sì, perché praticamente adesso hanno detto che il Movimento 5 Stelle ha tradito. Non si sa bene allora, che cosa, però... facciamo un passo indietro, io mi ricordo sì. che Dibba, Di Battista, aveva detto così. Per noi, per me, la legge sulle unioni civili è una legge importantissima, necessaria. Dire che come altre 20 sembrerebbe come che fosse poco importante, al contrario. Dobbiamo capire che i diritti civili sono importanti se accompagnati insieme a diritti economici, sociali e diritti politici, quelli che ci stanno togliendo quotidianamente nel silenzio generale, facendo finta, io sono convinto che il PD stia facendo finta di voler invece dare un diritto civile che è sacrosanto, giustissimo appunto nei unioni civili, che noi non vediamo l'ora di votare. No, adesso allora scusate, dovete sì, chiarmi era qualcosa. Un'intervista a Repubblica TV. Alla notista politica di Repubblica, quella che segue di più da più tempo, meglio, che ha fatto un sacco di scoop sul Movimento 5 Stelle. E mi sa che la conosco. Vai, presentala allora. Gli ascoltatori mi prendono spesso in giro perché dico è un mio amico o una mia amica, ma lei la conosco veramente da talmente tanti anni che una volta hanno anche rischiato di arrestarci insieme. No. Sì. E perché non ci sono riusciti? Problema. Non siamo finite in galera per un attimo. Ecco, buonasera. Notista politica di Repubblica, Annalisa Cuzzocrea. Ciao Annalisa. Buonasera a tutti, ciao Marta, ciao Daniele. No, sì, adesso prima cosa, i 5 Stelle, niente, la scaletta viene buttata perché via. Perché ci stavano per arrestare? Si può dire? Sì, ci stavano per arrestare a Londra, dopo gli attentati di Londra, perché eravamo non apposta, però sembravamo appostate davanti alla sinagoga. Non eravamo appostate, cioè eravamo stavate lì facendo il vostro lavoro? Sì, stavamo ma facendo il nostro lavoro. Ma poi perché stavamo lì? Ma tu te lo ricordi? Ma perché siamo andate alla sinagoga? Ma non lo so, perché le abbiamo fatte di tutti i colori. Perché Nelle moschee, nelle sinagoghe. Andavamo dappertutto. A intervistare, cioè stavate certo, lavorando. Certo, però vedi due con l'aria pericolosa come me e Annalisa Cuzzocrea e cosa pensi? Certo. Arrestarle subito. E quindi voi avete spiegato? Noi con la nostra aria da angioletti capitati per caso, peraltro stiamo parlando di 10 anni fa, quindi proprio due bambini. Niente, vi hanno liberato. E ci hanno detto che in realtà quelli più sospetti avevano le facce angeliche come le nostre. Boh, infatti. Però poi sono lasciata andare, sono una bodyguard abbastanza temibile, ricordi? Ma era bello grosso. Era più grosso di noi due messi insieme. Allora, Annalisa, Daniele, entrambi, spiegatemi cosa è successo. Io mi sono persa su questa cosa. Non lo so, Annalisa, spiegaci tu, visto che hai avuto Di Battista per un bel po' intervistato da te Repubblica TV. Che sì, cosa ieri succede? Lo abbiamo torchiato per una mezz'oretta circa. Ma è successo che il Movimento 5 Stelle ha sempre detto di volere le unioni civili, addirittura aveva presentato un disegno di legge per il matrimonio egualitario, quindi oltre questa legge, voleva dare diritti ulteriori ai gay. Però a un certo punto... E tutto questo è successo quando i parlamentari se ne occupavano loro, avevano fatto anche un referendum sul blog che col 90% dei consensi aveva detto sì, le unioni civili sì. Non era proprio esplicito in quel referendum che ci fosse o che cosa fosse la step child adoption, però era stato legato il testo della legge e quindi tutti avevano potuto leggerlo prima di votarla. A quel punto i parlamentari convinti avevano detto che avrebbero votato sì a qualsiasi cosa, ma è arrivato un post sul blog un paio di settimane fa in cui si diceva libertà di coscienza sulla stepchild adoption, quindi i parlamentari non sono tenuti, come fa il Movimento 5 Stelle, che tutti devono votare quel che si decide, non sono tenuti a votarla, ma possono fare liberamente. E da lì il PD ha iniziato a capire che di questi 35 voti non doveva essere poi così certo. Ecco, però io... In realtà, i casi di coscienza sono pochi, sono tre. Esatto. Quella cosa è servita solo a destabilizzare dal punto di vista simbolico, diciamo, il rapporto tra PD e Movimento 5 Stelle. Non si è neanche capito perché per tre voti si sia fatto tutto questo baccano. Daniele, tu che... No, Annalisa, io ho un'idea molto chiara per una volta favorevole ai 5 Stelle, da due punti di vista. Allora, come fa un partito come il PD, che su certi temi di questa legge lascia libertà di coscienza, accusare Grillo e criticare Grillo perché lascia libertà di coscienza, cioè fa la stessa cosa? Il punto non è la libertà di coscienza, il punto è l'aver detto fino a quel giorno abbiamo tutti i voti, votiamo qualsiasi cosa, e poi aver detto ah no, però su questo siamo liberi. Ma il problema, hai ragione tu, il problema c'era il PD, che non ha un gruppo abbastanza compatto e soprattutto non ha una maggioranza solida su questo, perché ha una maggioranza col nuovo centrodestra che questa legge non la vuole, dice di non volerne alcuni pezzi e che senza stepchild la vota, questo stando all'ultima intervista di Alfano proprio a Repubblica, però noi ne abbiamo visti, abbiamo parlato con molti senatori di NCD che insomma se potessero non votarle proprio queste unioni civili non le voterebbero, poi per ragioni di Stato si fa questo e altro, quindi insomma una maggioranza molto traballante aveva tanto bisogno di quei voti, talmente tanto bisogno che quando appunto alla prova del canguro i 5 Stelle hanno detto no, non ci stiamo neanche sul canguro. Il canguro, non so se l'avete spiegato, è praticamente un meccanismo per cui spiegatemelo bene, perché questa cosa è un meccanismo canguro. Perché tu voti una modifica alla legge e automaticamente decadono tante altre piccole modifiche, cioè tanti altri emendamenti che sono stati presentati, ed è un modo per, come dire, spultire dagli emendamenti inutili e andare avanti votando le cose principali della legge. Addirittura il super canguro, con un emendamento solo voti tutta la legge e decade tutto il resto. Beh, il super canguro, sono già fan in generale del super canguro solo per il nome, mi piace da morire. Ci sono anche i cangurini, guarda, se ti vuoi divertire. No, devo dire che ci stiamo davvero divertendo. Annalisa, però mi sembra che la questione sia complessa, però come sempre se uno volesse leggerla solo attraverso i social sarebbe invece molto più tranchant. Le reazioni sui social sono state come sempre particolarmente violente. Io cito ad esempio la polemica che ha suscitato Costantino della Gherardesca, che insomma ha fatto un tweet piuttosto cattivo sugli esponenti del Movimento 5 Stelle. Sì, contro Airola, contro il senatore Airola, se non sbaglio, comunque sì, contro i 5 Stelle. Ecco, dal tuo punto di vista, che appunto conosci bene la politica e la studi quotidianamente, queste reazioni sui social? Il dibattito si è molto incattivito, Marta, su queste unioni civili molto incattivito, perché purtroppo è una cosa che succede spesso sui diritti, sulla pelle delle persone, è una cosa brutta, però l'ho vista succedere anche altre volte, non so perché scatta una sorta di ideologia per cui automaticamente io sono il bene e tu sei il male, ma non vale solo per i cattolici o gli ultracattolici o i conservatori, ma anche dall'altra parte, no? Noi siamo il bene verso il progresso e voi siete l'oscurantismo, e quando si creano, diciamo, delle contrapposizioni così forti, poi spesso viene fuori anche la violenza nei social. Io ho parlato col senatore Airola, mi ha raccontato che dopo aver detto no in aula al super canguro, lui che poi è un difensore strenuo della legge stepchild compresa e anzi appunto vorrebbe dare ancora più diritti, mi ha detto, mi hanno scritto muori tu e la tua famiglia, cioè, insomma gli hanno scritto su Facebook di tutto, poi lui ha cercato di sfoltire e non lo so perché accada, devo dire che credo che sia, questa è la mia idea, frutto di un'immaturità davvero forte di questo paese su certi temi, però anch'io mi sono molto sorpresa della violenza del dibattito. Ti dirò che anche le scene che abbiamo visto in Parlamento il giorno dopo con gli attivisti gay che circondavano la senatrice Paola Taverna chiedendole conto del suo voto, ovviamente non c'era alcuna violenza, però erano in cinque a chiederle conto e a dirle no perché voi non ci avete voluto dare i diritti. Detto questo, è anche vero che il Movimento 5 Stelle, Daniele, su questo non sono molto d'accordo con te, ma non perché loro hanno tutto il diritto della libertà di coscienza anche di decidere no al super canguro, e va detto che l'hanno sempre fatto, sono sempre andati contro le tagliole, le ghigliottine, cioè tutti questi meccanismi parlamentari che servono un po' a velocizzare il dibattito e a eliminare l'ostruzionismo, quindi questo è coerente da parte loro. Però è vero che c'è stato, come dire, un dietro front, cioè prima si diceva faremo qualsiasi cosa per questa legge, e Airola aveva garantito che anche il canguro probabilmente sarebbe stato votato. Però hai ragione Annalisa, però fa un po' parte del gioco politico evidenziare le contraddizioni dell'altro partito. Il PD è diviso, non può accusare i 5 Stelle di tradire un'ipotetica... Infatti guarda, io quello che ho detto pure ieri ad Alessandro Di Battista e alle altre persone che ho intervistato su questo, che continua a dire la colpa è del... Quel che dico io è che al di là di chi è la colpa, il risultato di quell'azione è stata che la legge è adesso nei guai e che non so se... Ma secondo te passerà? Passerà come passerà. Fino a una settimana fa ti avevi detto sì, e anche con l'Alter Child. Adesso sinceramente non lo so, vedo il PD molto confuso, nel senso che... Non lo so, tu cosa avresti fatto? Io a quel punto avrei votato, non avrei preso un'altra pausa. Esatto. No? E in questo hanno ragione i 5 Stelle, dicono ma questo canguro alla fine neanche è stato messo al voto. Esatto. Cioè, alla fine loro hanno detto non lo votiamo e automaticamente gran confusione e si prende ancora un'altra settimana di tempo dopo che si era presa un'altra settimana solo per... la discussione generale, insomma si continua a rinviare perché questa legge i numeri sembra non averli, dopodiché il Parlamento è sovrano, si vada a votare e si veda, su questo i 5 Stelle hanno ragione, anche se è complicato perché poi anche qui i meccanismi parlamentari sono difficili da spiegare, ma quando una legge arriva dalla Commissione senza un testo base, senza un relatore, è davvero complicato con pochi voti di scarto di maggioranza che ne esca una buona legge, cioè potrebbe uscire di tutto, un voto segreto potrebbe passare, ci sono degli emendamenti burla, no? Sì. Anche di NCD, non solo della Lega, potrebbe passare che non so che si devono sposare solo tigri e leoni, cioè ci sono delle cose... Quindi, sai, con 100 voti segreti, anche se rimangono alla fine 500 emendamenti, è vero, si possono votare in pochi giorni, ma con tanti voti segreti tenere una maggioranza così risicata, tenete conto che poi ci sono sempre quello malato, quella in maternità, cioè non è sempre, anche i voti di scarto ballano, e 100 voti segreti così... rischia che viene un mostro, è quello il timore del PD. Altro che canguro, il altro mostro. Altro che canguro, sì, un ircocervo. Grazie ad Annalisa, l'ircocervo, speriamo che non lo inventino. Grazie Annalisa Cuzzocrea per essere arrestare stata più, con noi. Eh? No, non grazie lo facciamo voi, più. Non vedo l'ora di farmi arrestare con ma te. Infatti, ma dovremmo ma ricominciare. Ma come mai nessuno? Ma perché? Ma perché noi facciamo le cose pericolose. Ciao Annalisa, ciao, Annalisa. Presto. Che bello aver avuto Annalisa Cuzzocrea con in noi libertà. A RadioTube, sì, non in stato di arresto. Dai, noi facciamo ci troviamo una tra breve poco, pausa. ancora ospiti, a tra poco. RadioTube. E niente Daniele, siamo per benissimo. Eccoci. Ci scrivono che siamo per benissimo al 349-238-6666, sms, whatsapp. Insomma, io in questa puntata, in questo sabato ho confessato che mi sono ubriacata con Enrico Ruggeri a Sanremo, che ero a Sanremo per cercare un fidanzato e non l'ho trovato, che mi sono quasi fatta arrestare con la Cuzzocrea. Che cosa devo dire di più? Dice formalismo. Parolacce di chi vuole sempre. Apparire a tutti i costi per bene. Ma noi, no, noi, anzi, io tutta la vita male. Che cerco di diventare apparire per male pure. Vabbè. No, però c'è un altro sms, dai, non, dillo che non, ti è no, piaciuto, sì, però l'sms non, di lo, Maurizio. Lo possiamo far leggere a Filippo, a Cristian, un po' mi vergogno. Ti vuoi sono per smarcare. Bene, perché sono per bene. Vedi che sei per bene. Vabbè, tu. Dice, vi spiego io che cosa è successo con la legge sulle unioni civili. Il PD ha proposto il canguro e i 5 Stelle hanno risposto con l'uccello Padulo. Vabbè. Ah, che bello, e tutti sappiamo l'hai fatta cos'è leggere. L'uccello Padulo. L'hai fatta Padulo. Leggere. Allora, et Marta Cagnola, et Di Bellasio, questa settimana è iniziata una trasmissione che è il sogno di tutti noi, cioè decidere alla fine di una discussione chi ha vinto. Oh, fantastico. Allora, siccome abbiamo iniziato il sabato del villaggio con un grande di Radio 24 che è Enrico Ruggeri, noi con RadioTube festeggeremo un sacco dei nostri nazionali di Radio 24 questa settimana. Temevo è andata Donald in Trump, dicessi. che non c'entra niente, appunto. Trump, Mentana non no, c'entra festeggiamo niente. Festeggiamo i nostri Radio 24. Quindi questa settimana è andato in onda il primo appuntamento con maggioranza assoluta. Credo che evitare queste parole sia meglio, anche per il significato, perché per esempio frocio viene dal latino che vuol dire flaccus, cioè flaccido, molle. Voi andate in una discoteca gay, sono tutti muscolosi, quindi è molto più flaccido Formigoni, vorrei dire. Certo che bisogna evitarlo, anche perché come ogni insulto, poi questi sono particolari. Beh, allora perché ha usato che isterica nel tweet? Scusi, la persona dell'altro. Ha fatto un tweet in cui già definite che isterica, adesso dice rivolto a due o tre persone molto chiare. Vabbè, quelle due o tre persone saranno offese. Erano molto isteriche quelle due o tre persone. Comunque sono una checca isterica. Bene, brava, complimenti, ti stringo la mano. Sei tu che rifiuti. Bravo. Allora, il vescovo dice cose di senso comune. Peccato però insomma che poi il magistrato abbia applicato le leggi, queste leggi, e che poi magari debba anche girare sotto scorta. Però sul senso comune delle parole del vescovo credo che non ci siano dubbi. Ci sono tweet? Assolutamente sì, il popolo di Twitter e di maggioranza assoluta assolutamente sì, si è scatenato tantissimo anche sul tema della legittima difesa. E allora da giovedì 18 febbraio su Italia 1 è iniziato maggioranza assoluta, 5 personaggi noti si sfideranno su più temi, conduce Pierpardo, vince chi vi convince, e a me sai chi ha convinto? A me ha convinto Pierluigi Pardo, ciao Pierluigi! Ciao! Sei troppo buona, mi vuoi troppo ma lo bene. Sai come che va? Io ti voglio bene, sei il top come dice. Grazie. Allora Pierluigi, senti, come ti è parsa così il polso del talk show? Show non sportivo, come stava questa prova? Mi sono divertito, mi sembra che abbiamo tenuto un livello di civiltà adeguato, ha vinto alla fine in maniera forse neanche troppo sorprendente il comico, e questa può essere anche una qualche modo una metafora perfetta dell'Italia di oggi, dove è più facile magari convincere le persone per uno che pratica l'arma della simpatia piuttosto che per un politico di vecchio corso come Formigoni o come la stessa Luxuria, che comunque andava molto bene, è arrivata al secondo posto. I due giornalisti sono stati eliminati subito, il meccanismo è stato secondo me carino, divertente, è chiaro che è un esperimento, è un format tedesco che tra l'altro in Germania viene declinato in maniera molto diversa. Perché anche perché lo diciamo che tu il tedesco lo parli perfettamente, quindi te lo sai. È vero, lo so. No, non è vero, lo parli bene il tedesco, lo sappiamo. No, però in tedesco è absolute Mehrheit, cioè maggioranza assoluta, però è un programma che viene applicato in pratica alle elezioni con i politici. Quindi il tentativo era di fare un numero zero, ma in realtà in onda, perché chiaramente essendo un programma che si basa sul televoto non lo potresti fare un numero zero senza andare in onda. E devo dire che siamo contenti, siamo soddisfatti, probabilmente dobbiamo migliorare alcune cose sul meccanismo del gioco e renderlo ancora più, diciamo, pieno di tensione, un pochino più spettacolare. Io sono molto contento perché ti dico sinceramente, alla fine assistere a un dibattito nel quale comunque, anche nonostante posizioni diverse, Luxuria e Formigoni riescono ad esempio a interagire in maniera civile, mi è piaciuto particolarmente. Poi insomma, chiaramente ci sono delle cose da sistemare, ma sono contento e... Pierluigi, insomma, visto che tu hai citato la vittoria finale di Andrea Pucci, io vorrei far sentire un po' secondo me qual è stato il punto decisivo e poi chiederti qualcosa in merito. Io volevo che mi dessero la camera e volevo dire ai politici: ma non siete stufi di rubare, avete rotto i coglioni. Qui allora la rete si è accesa, che cosa è successo? L'antipolitica vince sempre, c'è poco da fare, dice Segesi, grande lucidità. Tutti per Pucci, scrivono tutti per Pucci. Sì. Attilio scrive: Pucci, inizio a pensare che sarà il nuovo Beppe Grillo. L'ho detto adesso. Allora, l'antipolitica, il nuovo Beppe Grillo, il comico, hai svelato, non so quanto volendo farlo in quel momento, però un meccanismo importante, il saper cogliere l'umore, scatenare la rete che per la prima volta peraltro in questo format interagisce. Sì, ma guarda, io ti dico, premesso che appunto non è un sondaggio d'opinione, non è un campione statistico rappresentativo dell'Italia, ci mancherebbe altro, l'abbiamo ripetuto mille volte. E anche la classifica che cambiava di manche in manche dimostra che insomma gli umori e le pulsioni possono cambiare da una parte all'altra. Però abbiamo avuto buoni numeri, abbiamo avuto 20.000 voti, quindi l'idea che 20.000 persone abbiano partecipato è abbastanza indicativa. Sono numeri secondo me in linea con le varie consultazioni, per esempio le 5 Stelle sul web. Beh, è un esempio, secondo me, di democrazia televisiva, è un esercizio di stile, anche se vuoi, di partecipazione in tempo reale. Poi, insomma, noi oggi piangiamo la morte di un grande letterato, di un grande intellettuale italiano che negli ultimi anni aveva detto che, insomma, la rete era anche un modo per dare parola a tanti cretini, no? Eh sì, l'abbiamo mandato in onda. Ed è evidente ovviamente che il popolo del web, spesso protetto anche, diciamo, dall'anonimato, dalla possibilità di dire quello che si vuole, certe volte anche per provocare, qualche volta possa avere degli eccessi, però alla fine questa è una democrazia, bellezza, e ci piaccia o no, insomma, il voto di un intellettuale che ha studiato per 40 anni vale, grazie a Dio, come il voto di uno che non ha studiato, perché questa proprio è la logica della democrazia. E poi è un esercizio, se vuoi, di retorica e di stile. Sicuramente quella battuta di Pucci lì ha funzionato. Pucci, se non sbaglio, non era primo dopo la manche precedente, lo è diventato improvvisamente. Poi alla fine c'è anche un test psicologico fra due persone, quindi c'è anche un elemento di, diciamo, di simpatia umana, no? Il mistero della simpatia di cui ha scritto bello, tweet, che, bello peraltro che tu hai sottolineato subito il controcanto, dicendo che il primo tweet che tu hai letto è l'antipolitica vince sempre, quindi beh sì, mi sembra abbastanza normale, cioè io guardo tipo Pucci dire quella cosa, dal mio punto di vista, diciamo, ho pensato che era un po' qualunquista quella posizione, no? Dire i politici rubano, Senti, l'altra cosa bella, scusa se ti interrompo, è che tu continui a dire si votano più le idee, non le persone, però questo rischio un po' c'è, ovviamente, anche nelle discussioni tra di noi, parlavi prima di empatia, no? Questo rischio c'è assolutamente, però fa parte della vita, insomma, è ovvio che qualsiasi frase, la stessa frase detta da tre persone che ti stanno, una molto simpatica, una così così e una molto antipatica, la stessa frase ti fa un effetto diverso, no? Quindi fa parte della natura umana e non c'è niente di male. Però quello, diciamo, quelle erano le regole del gioco, le regole di ingaggio. Siccome vogliamo fare una discussione su argomenti, era giusto ricordare che si cercava di votare le opinioni. Quindi, insomma, non è che sì. Adesso Facci sia diventato uno antipatico perché è arrivato quinto, Francesca Barra sia per forza meno simpatica di Luxuria, no? È un gioco, devo dire che comunque mi è piaciuto, perché c'è stato grande fair play fra i cinque opinion leader, però alla fine c'è stata anche da quello che mi dicevano le varie persone della produzione, che magari accoglievano le persone appena eliminate. Insomma, quando viene eliminato ti rode, ah beh, sì, ti perché rode, comunque c'è un elemento che si chiama ego, che è una cosa normalistica, soprattutto tra i giornalisti e i politici, diciamo, giornalista, che il politico, non hai fatto nomi, però in generale. Pierluigi, due settimane fa noi abbiamo avuto Alessandro Cattelan, e una delle cose che gli abbiamo chiesto è stata la nuova generazione di conduttori, perché dietro i 50-55 anni ce ne sono pochi pronti a raccogliere lo scettro. E prima eravamo in mensa a pranzo con Cristian Goldoni e con Claudia Schiattone, che conosci bene, che si occupa della redazione dei programmi sportivi, e ci dicevamo: secondo noi Pierluigi Pardo a cosa l'avete candidato? Ma in generale, secondo me, più che sport, Pierluigi, sì, più che sport, sì, tante cose, sì, per ma da te, tempo secondo si me. Dice, magari, più magari che sport. Senza lasciare lo sport e senza lasciare le telecronache, che sono la mia passione numero uno, insomma, è una specie di coperta di Linus, non lo so, è l'infanzia forse, è il piacere, il gioco, è una cosa che mi piacerà sempre a qualsiasi età, e quindi è una cosa alla quale non so proprio dire di no, però in generale sì, poi adesso è il primo momento della mia vita in cui sto cominciando a farmi delle domande su quello che mi piacerebbe condurre, e quindi ti posso anche dire che forse mi piace di più una strada legata all'intrattenimento oppure all'infotainment, però diciamo leggero, con ospiti, con interviste, appunto sul genere del programma di poi c'è Cattelan o di Fazio, della Bignardi o di Costanzo, piuttosto che certamente, ecco, non ho nessuna ambizione di diventare un giornalista, di un conduttore politico. Ho apprezzato tantissimo Santoro negli anni, mi piace tantissimo Floris, seguo i talk show politici, li considero diversi, più che meno, ma tutti comunque assolutamente interessanti, e li guardo da telespettatore, ma non è quella, it's not my cup of tea, sarebbe da dire, no? Cioè, penso che ci sia gente molto più brava di me nel saper far nascere polemiche. Però mi piace questo Pardo conduttore di intrattenimento. Sì, perché poi alla fine, secondo me, il mondo si divide in cavalieri bianchi e cavalieri neri, persone che amano la polemica e che sono brave a suscitare le polemiche nelle persone, persone che invece istintivamente sono più portate a cercare il divertimento, la risata. E... cioè, a me vedere che alla fine Luxuria e Formigoni, questa è una sessione di psicanalisi in diretta radiofonica, sì, sì. Vedere alla fine che Luxuria e Formigoni, pur cambiandosi stoccate, essendo praticamente in disaccordo su tutto, avevano alla fine una sottile, non voglio dire complicità assolutamente, certo. Altrimenti Luxuria e Formigoni idem, però alla fine avevano un onore delle armi, no? Un fair play, sì, certo. Un riconoscimento dell'idea altrui, a me è una cosa che piace. Sì. Grandissimo. Il nostro invitate amico, Marta Cagnola, così la votiamo. Il nostro amico Martino Cruciani, che è il numero uno da quel punto di vista, proprio il numero uno di fronte a una cosa del genere, si sarebbe messo a dormire dalla noia, lui invece avrebbe voleva voluto il sangue. No, la rissa. E quindi insomma sono modi di essere, sono modi altrettanto legittimi di considerare una possibile polemica. Ecco, sì, io sono più per la rissa. Più per la risata che per la polemica. Grazie Pierluigi, quando hai detto Cavaliere Nero stavo tremando di paura. A presto Pierluigi Pardo. A tra poco. Ciao. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Radio Tube. Un giorno ti dirò che ho rinunciato alla mia felicità per te e tu riderai, riderai, tu riderai di me. Mi emoziona ancora un po' perché il momento in cui tu l'hai vissuto, ci sei stato a Sanremo, nel momento della proclamazione del vincitore, anche dalla sala stampa, è emozionante, è un momento bello. Sì, anche perché, non so, mi posso dire, non sono un esperto, ma un po' sorpresa, no? Non è che sì, proprio... non è che ce l'aspettassimo proprio tutti, no, tutti. Diciamo che è maturata nei giorni, eh? Ah, cresceva. No, perché cresceva poi tutti dicevano, ma perché il telefonino lo sanno usare i giovani, ma sì, perché però i dicevamo talent... anche che magari la giuria di qualità avrebbe cercato di temperare un po'. Non l'ultima sera, perché l'ultima sera non c'entravamo più e il nostro voto valeva veramente poco. Quella dell'ultima sera, sì. Quella dell'ultima sera pensavamo, l'ha detto anche prima, un po' Valerio Scanu, giovani dei talent hanno preso tutti zero, cioè o poco più, quindi alla fine insomma, però erano stati molto amati anche dal pubblico, quindi gli stadio sono andati bene, la canzone bella, emozionato. Io però vorrei sapere com'è stato il primo Sanremo. Ma cosa ci faceva soprattutto? Siccome abbiamo festeggiato Pierluigi Pardo, abbiamo festeggiato Enrico Ruggeri, un altro dei nostri nazionali di Radio 24 che era il suo primo Sanremo, non lo sai, in pochissimo. Ciao Federico. Ho cantato Ero Caccamo, in verità, sotto 23 spot. Senti, ti sei ripreso dalle fatiche di Sanremo? Cioè, com'è stata? Poi spieghiamo dalle anche perché c'eri. Dalle feste notturne soprattutto. Ma ti saltano tutti i bioritmi, quella è la verità che nessuno racconta. Cioè, dopo sei una settimana per riprendersi, perché sono proprio tempi che cambiano rispetto al mondo reale. Cosa ci facevi a Sanremo, Federico? Ma allora, ho avuto l'onore e il piacere, voi sapere che tra le mie tante attività c'è anche quella di autore televisivo, e Virginia Raffaele, insomma, che è stata ben presente sul palco, mi ha coinvolto in questa esperienza, quindi ho collaborato ai suoi testi. Lei da anni lavora la vincitrice di Sanremo, diciamolo. Lavora con Giovanni Todescan, che è il suo autore storico, però visto l'impegno, visto il tanto lavoro, c'era bisogno di un'aggiunta e ho avuto io il piacere di essere quella aggiunta. Grandiosa esperienza umana e professionale. Ma sì, ma io ho la solita curiosità dell'altra volta, ti ricordi che ne parlavamo? Ma Federico, è più difficile o più facile scrivere, aiutare a comporre un personaggio unico per tutta la serata o farne diversi per tutta la serata? Perché lei tutte le sere impersonava un unico personaggio per tutta la durata della trasmissione. Allora, è impressionante vedere quello che succede prima della messa in onda, cioè il lavoro che fa Virginia nel camerino, tante ore di trucco, ma tante ore anche per entrare in questo personaggio. Proprio io la studiavo, non la conoscevo bene, quindi anche ammirato, no? Vedi proprio che entra nel personaggio, lo cerca, a un certo punto dice sì, l'ho preso, e a quel punto non è più Virginia ma è il personaggio che sta interpretando, e difficoltà ad entrarne, poi è una grande professionista, quindi poi facilità anche ad uscirne, anche se poi ci sono anche ore di strucco poi. Ah beh, certo, perché per diventare soprattutto Carla Fracci, per dire, tantissimo prima e dopo. Poi insomma reggere il trucco e il personaggio per tutto quel tempo comunque richiede concentrazione, preparazione. Lei è una che prova tanto, anche se è bravissima a improvvisare, e ne ha dato ben testimonianza quando è stata se stessa. Sì. Però insomma un bel gioco, faticosissimo, davvero un bel gioco. Da autore e autore navigato, quale sei? Navigato, adesso navigato. Sembra che ha 90 anni. Ma no, ma siamo coetanei, ma lui è stra bravissimo, esperto, ha scritto esperto. Per tutti. Come ti è parsa la macchina del festival da dentro? Perché a noi sembrava una bomba orologeria, no? Tutto preciso, perfetto. Pure tu troppo. Come ti sei? Vedi, pure troppo, dice Daniele. Tu come ti sei trovato in questo congegno? Allora, guarda, Carlo, io non l'avevo mai visto al lavoro così da vicino, ed è un mostro di bravura. Può piacere o meno sul palco, ma dietro è veramente un computer. Ha tutto sotto controllo, ma tutto, cioè dal sottopancia alle luci, alla location, alla regia. Però canta anche tu delle canzoni, cioè mentre i cantanti cantano, lui è dietro che guarda la scaletta e intanto la canticchia. Perché io l'ho visto alle prove, le cantava tutte. Sì, tutte. È fantastico. E pochissimi sfori, una squadra collaudatissima, insomma una macchina dove c'era tanta gente, tutto molto provato, anche questa cosa mi ha colpito del lavoro nei giorni prima, uno immagina le prove dei cantanti, ma Carlo insomma, ha provato scalette vuote, ma era lui sul palco che comunque andava avanti, chiedeva che fossero mandati quei video, quegli spot, cioè che fosse tutto... Nulla lasciato al caso, ecco, ma credo che si sia visto. Sì, assolutamente. Anzi, io dicevo prima per scherzo pure troppo, ma era veramente una macchina perfetta. Però la domanda che ti volevo fare è questa: qual è la percentuale degli ingredienti? Quanto c'è di studiato, provato e messo in atto, e quanto invece di improvvisato, sorprendente, che capita sul palco? Ma guarda, allora, i fuori programma ci sono, lui li sa gestire. Uno pensa che il fuori programma sia, vabbè, si inceppa il gobbo, salta una luce, scivola un ospite. No, il fuori programma è anche la battuta che ti viene, lo sguardo col cantante che fa scaturire magari una seconda battuta. Quello c'è, Carlo non ha paura, però il suo mantra è ritmo. Vero. Lui ha paura di tutto ciò che tolga ritmo alla grande cerimonia. E lo dice sempre, le canzoni sono il cuore, il centro, tutto il resto è accessorio. Ce ne fossero di accessori come quelli che abbiamo visto quest'anno. È vero. Grazie Federico per essere stato con noi, per averci raccontato la tua prima esperienza. Saremo e speriamo prima che ce tante. Ne siano tante altre. Grazie. Chissà. Grazie a Federico Taddia, a presto. Ciao, anche perché detto così tutti diranno, ah, magari arriverà un giorno con Fiorello, che noi speriamo. Chi lo sa, anche quello potrebbe essere ah, un sì, domani. Ah sì, la tua vecchia battaglia. Ma sì. L'anno prossimo lo conduce ancora Carlo lo Conti. Lo conduce ancora Carlo Conti, beh, a furor di popolo. Sai che ragazzi. È un genio scoprire che la prima serata ormai inizia alle 9:30. Vabbè, ma guarda, ha funzionato benissimo. Io appunto l'ho visto da lì, però la percezione della visione televisiva ce l'avevo anche attraverso i social. È stato un Sanremo, sì, al quale si poteva dire proprio poco. Vabbè, insomma. È volato il tempo. Sì, dobbiamo ci fare un po' rivediamo. Di ringraziamenti. Ringraziamo Christian Goldoni in redazione, Filippo Aureggi in regia che mi ha sopportato per 3 ore, ha sopportato te per una, santo, ce l'abbiamo fatta. Vabbè, ci ritroviamo il prossimo sabato ancora con Il Sabato al Villaggio alle 15, ancora con RadioTube alle 17. Ciao, buon fine settimana, ciao.